Bene, riprendiamo il nostro viaggio per dare voce a chi non ne ha avuta e ancora oggi non ne ha, attraverso le testimonianze emozionali dei racconti del collettivo Linea S. Alcune note sulla prossima autrice, Federica Kessissoglu. Federica Kessissoglu è nata a Genova, vive a Zuaglie ma un po' di radici in terra d'Armenia. Lavora in mezzo a dati e statistiche 5 giorni su 7 ed è proprio questo il motivo per cui quando stacca si dedica alla fotografia, al teatro e alla scrittura. Vi lascio l'ascolto quindi di Questioni di geometria di Federica Kessissoglu. Lo schwul, l'insulto alla virilità, il triangolo rosa, io il diverso, io lo sgorbio, io il vituperato, io il nemico della bella società quadrata, talmente semplice, con l'aria che si calcola lato per lato, io con lati corti e lunghi e angoli precisi e strani. La mia aria si fa fatica a calcolarla. E a che scopo fare tutta quella fatica? Io lo scherzo che non fa ridere. Io il corpo da violare, io l'anima da annientare. Chiudo gli occhi. Parlami. Parlami nella notte. Accarezzami con le tue parole. Come facevi dopo l'amore in quella piccola stanza sopra la Metzgerai. Da quella stanza uscivamo separatamente, uno alla volta, come i numeri della Reichslotterie. Ci ridevamo sopra. Ricordi, Mein Lieber, è difficile far apparire il tuo volto su questo muro bianco. Da un po' vedo solo bianco. Siamo poveri corpi bianchi senza sangue. Non siamo neanche più numeri. Non abbiamo la dignità dei numeri, siamo ossa che camminano, senza sesso finalmente. Tutti uguali, tutti sgorbi che butti via senza uno sguardo, senza un pensiero, in questo campo quadrato con l'aria che si misura lato per lato. All'inizio contavo i secondi, poi i minuti, le ore. Ora conto i giorni, ma il tempo non è più una misura. Il tempo non esiste più. C'è solo il bianco. E non riesco nemmeno a piangere l'idea di non ricordare il tuo volto, le tue parole, le tue carezze, Mein Lieber. Forse la cosa che mi terrorizza di più è provare sentimenti per questo bianco. L'altra sera ero fuori al freddo in attesa che ci facessero rientrare nella baracca. Tremavo. E ho visto una striscia bianca nel nero accennato del crepuscolo. Un nero che si sarebbe fatto presto notte. In quella striscia bianca c'era una bellezza assoluta e indefinibile. Ho sentito qualcosa di caldo scendere sulla guancia, qualcosa di inaspettato. E poi c'è l'odio che cova dentro di me, un odio feroce che prende direzioni nette, diagonali. L'odio verso me stesso, l'odio per te, Mein Lieber, causa di tutto questo dolore, di tutto questo bianco. Sono odio e non sono più niente, non sono più pensiero, è stato tutto cancellato, io lo sgorbio che proprio non ci sta nel foglio bianco e quadrato, sempre bianco, Non avrei mai immaginato che tanto orrore potesse essere contenuto nel bianco. Nel bianco senza macchia. In un semplice quadrato lato per lato. Così facile da capire. Da pensare. Alla fine, tutta la vita chiusa in un quadrato bianco. Io e te sopra di essa. Che passiamo leggeri, sgorbi neri. E adesso è la volta di Dario Manera. Avete già ascoltato la sua interpretazione nella lettura del prologo di Himmler e dell'altro documento storico che vi abbiamo fatto ascoltare. È nato a Milano, vive a Genova. È un lavoratore dello spettacolo. Da più di 30 anni transita spesso sui palcoscenici d'Italia e in alcune fiction televisive. Sempre disponibile nel mettere a disposizione la sua professionalità e la sua esperienza ai più giovani, ora ci farà ascoltare la sua interpretazione di Omocausto. È morto quel giorno, l'ultima volta che ti vidi, un attimo dopo. Forse era il giorno sbagliato. Nevicava. Non so perché passai di lì, e certo neppure tu. La notte non dormita appena trascorsa doveva incorniciarsi nella memoria come un quadro del Bellotto, che ne dici? Per questo imboccai Augustusstrasse e girai a destra. Il fiume. Il nostro fiume. Ma lui non è responsabile, non può esserlo. Fu testimone, questo sì. D'estate. Quell'abbraccio nell'acqua per gioco. Ma non solo. Anche tu volevi rivederlo. E quel giorno ti incamminasti verso la terrazza di Brühl, percorrendo al contrario lo stesso tragitto che avrei fatto di lì a poco. Sfidando il vento gelido guardavo diritto, ancora caldo di te. E prima di salire riconobbi la tua risata piena, contagiosa. Ti ho visto in cima alla scalinata, stesso cappotto, stessa sciarpa, stessi guanti recuperati all'alba ai piedi del letto. In compagnia. Non c'era ragione per allarmarsi. Il nostro accordo era chiaro. Non ti avrei salutato, neppure un cenno, e così avresti fatto tu. Troppo pericoloso. Persino la fantasia è punibile. Sta scritto nero su bianco nelle appendici del paragrafo 175. Lo sapevamo. Quindi neanche Ernst e Moritz, che ti stavano a fianco in divisa, avrebbero potuto supporre. Credo fossero Ernst e Moritz. Nessun altro dei tuoi amici ufficiali di carriera. Perché ridevi? Avevi appena finito di raccontargli qualcosa di esilarante. Decisi di passare alla vostra destra, più vicino al fiume, e ricordo che pensai, non troppo distante, in genere a sospetto, non in diagonale equivocabile, discosto almeno un paio di spanne, e rispettoso. Non alterai di un'oncia il ritmo né il respiro, posso giurarlo. Continuavo a salire. voi a scendere. Credo fu il cuore, il rumore del cuore, il suo battito, la gioia di rivederti, la voglia insopprimibile di abbracciarti. Fu lui che mi tradì? O tu, ormai giù dalla rampa, rispondendo a una domanda arrogante, sentii solo il mio nome. Non era la tua bocca a pronunciarlo. È morto quel giorno di dicembre il nostro amore, poco prima di Natale. Quando arriva gennaio, è già il secondo da quel Natale, non posso fare a meno di pensare come posso vivere a gennaio mentre lui è morto a dicembre. No. Oggi, qui, immobile al freddo che taglia la pelle, da quante ore, l'amore non è morto. Si è interrotto, cristallizzato dal vento che soffiava sicuro dalla fortezza di Königstein e ti gelò il cuore, facendoti scivolare in quell'imprudenza. Lo voglio credere, lo devo credere, che mi ha portato qui. Il mio non si è gelato. E l'unico calore che mi sostiene era amore. È amore. Se chiudo gli occhi lo sento ancora sulla pelle. Non è morto. Anzi, il ricordo riscalda, brucia, tale quale la prima volta, quando, come se la Frauenkirche collassasse su se stessa. Ho imparato ad ascoltarlo, altrimenti non sarei vivo. Volevano il tuo nome. Volevano che lo dicessi. E dicendolo farmelo dimenticare. Ucciderti. Il tuo nome. L'armonia del tuo nome. Strapparmi dalla bocca il miele che mi scioglie il corpo. Ne ho inventati altri. Tanti. Inesistenti. Mi sono finto smodato e incontinente. L'elenco per un po' li ha placati. Non potresti più avermi, però. Non perché non lo desideri ancora. Sanguino spesso. Per quanto dolce tu possa essere, dolce come quell'ultima notte d'inverno, si sono tolti il gusto di deturpare ciò che è bello. È qualità dell'uomo. Solo a lui appartiene, a nessun altro animale, la capacità di trasformarsi in bestia. E più di una belva si è accanita. Eravamo 300 giù nella cava di argilla all'esterno del campo. Un giorno sono semplicemente spariti. Solo 50 sono ancora vivi, mi ha detto un triangolo rosa. Resta al centro. Così ti colpiranno di meno. Non puoi immaginarlo. Qui, dopo tutto ciò che mi hanno fatto, ho capito. Prima non sapevo nemmeno ci fossero tanti pensieri. E animale sono anch'io. O così credono. Capro espiatorio di tutte le colpe del nostro popolo. Con me, con Achim, con Jürgen, con Reinhard, che però stava anche con Frida. Chissà che fine hanno fatto. Loro si ammendano, attribuendoci colpe che non abbiamo. Amare è una colpa. Amarti lo è stato. Amarmi era accusa dalla quale pensavi di non poterti difendere. È per questo che hai detto ciò che non ho udito, tipo sì, lo è. Tedeschi, noi e loro, biondi, alti, occhi chiari, maschi, noi e loro, anzi loro un po' meno, con quelle divise, tutta forza, purezza, istinto represso. Diversi dove? C'è stata un'ispezione ieri notte. altri Ernst e altri Moritz sono entrati in baracca e mi hanno strappato la coperta di dosso. Non avevo le mutande. Erano sopra la stufa ad asciugare dopo che le avevo lavate con un pugno di neve raccolto al rientro dalla cava. Hanno urlato il mio numero, vedi? Anch'io non ho nome. Preteso una risposta, già certi della mia perversione, e deciso di lavarmi qui fuori, senza braghe, con l'acqua fredda. Salvati. Che dico? A questo ci hai già pensato. Ama. Ama ancora, ti prego. Desidera. Scopa. Odora, assapora tutto, vibra di piacere, spargi il tuo seme di vita. Credimi, solo chi capisce la morte può amare la vita nella sua assoluta carnalità. Ora mi accuccio, solo un po' per riscaldarmi. Poi mi rialzo, promesso, per riscaldarti, per riscaldarci. Ho freddo. Tanto freddo, tanto freddo. Tanto freddo. Tanto freddo. Tanto freddo. E siamo giunti all'ultimo racconto della nostra giornata della memoria speciale Omocausto. L'autrice del racconto è Giulia Cocchella, 33 anni, una laurea in storia dell'arte, due grandi passioni, la bicicletta e la scrittura. Prima di lasciarvi all'ascolto del racconto di Giulia Cocchella, mi preme ringraziare innanzitutto tutti voi per l'ascolto, il collettivo Linea S per aver scritto queste storie, che amo definire i suoni del silenzio, perché attraverso questi racconti abbiamo provato a raccontare storie mai sentite prima e a musicarle, cercando di creare delle suggestioni. Ringrazio inoltre le radio che ci hanno dato spazio, Lifestyle Radio, Radio Centro Musica International e Radio Libriamoci Web. Non mi resta che lasciarvi all'ascolto del racconto scritto e interpretato da Giulia Cocchella dal titolo Sopravvissuti. Sopravvissuti. Mi chiedo, basta un cuore che batte per dirsi vivi? Non mi aspettavo di trovarti qui. Cambiare aria, casa, lingua, sono state esigenze forti per me, ineludibili, tanto che appena ho potuto, sono partito. 5 anni fa, ormai. Trovarti qui è come illudersi di ritornare a casa, di poterla ritrovare, quella casa, intatta, come se nulla fosse accaduto nel frattempo. Lucien mi dice che si vede che ho fatto la guerra. Mi dice, si vede dai tuoi occhi. È giovane Lucien. Abbastanza giovane da essere passato attraverso quegli anni come si oltrepassa una galleria in treno. Dice, guerra per dire dolore, per dire tortura, umiliazione, barbarie. Guerra perché tanti sono morti là dentro. Io no. Io sono sopravvissuto. Il mio cuore batte regolare, il mio corpo ha ripreso le sembianze umane così bene da ingannare persino me stesso. Di te non sapevo più nulla. Alcuni di noi avevano avuto l'avventura di trovarsi nello stesso campo, noi no. Alcuni di noi avevano visto morire i propri compagni, nei modi più atroci. Non ho mai parlato a nessuno di questo. Tu potevi essere vivo, potevi persino non essere stato schedato. Volevo con tutto me stesso che non ti accadesse niente. L'ho sperato ogni giorno, ogni tortura che ho sperimentato volevo che ti venisse risparmiata. Ecco, mi dicevo, quando la neve era così fredda da gelare il cervello. Ecco, questo freddo insensato lo sento io per tutti e due. Basta per tutti e due. Non fategli niente, non provate a toccarlo. Sono fuggito che eravamo in marcia, la marcia della morte. Non è passato giorno che non pensassi a te. Lucien qualche volta mi porta qui a ballare, a Saint-Germain-des-Prés. Andiamo a sentire gli americani, mi dice. Ballare è una di quelle cose che mi riescono. Mi sembra di calzare meglio il mio corpo. A te non piaceva, ricordi? Dicevi, preferisco ascoltare la musica. Dicevi, la musica mi piace. Non è un problema, preferisco guardarti. Così ballavo per te. Muovevo i miei fianchi pensando solo ai tuoi occhi puntati su di me, al desiderio che volevo suscitarti. Accadeva che urtassi qualcuno, allora ridevi. Ed io tremavo davanti a tutta quella grazia che la vita ci aveva dato. Eravamo due ragazzi, eravamo innamorati, sopravvissuti. Non pensavo di trovarti qui stasera, in questa stessa piazza. Una bambina, che cammina appena, lascia la mano della mamma e corre verso di te. È tua figlia. Il campanile di Saint-Germain, il cielo che diventa rosso, la tua figura elegante e quella di lei. Sono sicuro, eppure ho bisogno di guardarti. Sei tu. Hai avuto paura. Rivedo quel giorno in cui mi misi a cantare la nostra canzone. Rivedo la neve dura che ci facevano spalare sul lato sinistro della strada. Quando avevamo finito, ci urlavano di spostarla sull'altro lato. Era un lavoro senza senso. Il freddo ci tormentava al punto che alcuni di noi non riuscivano a trattenere i lamenti, anche se sapevano bene che cosa accadeva a chi si lamentava. Non so perché l'ho fatto. Ho iniziato a cantare la nostra canzone, quella che suonavano la sera che ci siamo conosciuti. Cantavo come un pazzo, anche quando mi hanno trascinato via. Ho cantato finché il sangue non mi è uscito dalla bocca. Non è passato giorno che non pensassi a te. Qualche volta ho creduto che il mio pensarti ti conservasse in vita. Sulla piazza passano le persone, mi sfilano davanti. Io sono altrove, solo, tradito. Lucien sente qualcosa, dice qualcosa, sa di te, ma non può immaginare. Io non riesco a spostare lo sguardo, ti chiamo con gli occhi. La bambina ora punta un dito verso il cielo e ti fa una domanda. Rispondi con il tuo garbo, quella voce che non ricordavo più e che adesso vibra nell'aria. La bambina ride, tu la prendi per mano e ti volti. Ti ho perso. Lucien accanto a me chiede, stai bene, vuoi che torniamo a casa? Dov'è casa? Che cosa è rimasto? Chiedo, ma la voce non esce. Lucien, che ha imparato a convivere con i miei sorrisi storti, che sa vedere le mie nuvole. Le chiama così. Ci sono giorni che ti passano le nuvole negli occhi, mi ha detto un giorno di quelli. E io da quel momento ho aggiunto una paura alla lista. La paura di diventare odioso, indesiderabile, con quella cataratta di nuvole negli occhi. Le chiama così. Ci sono giorni che ti passano le nuvole negli occhi, mi ha detto un giorno di quelli. E io da quel momento ho aggiunto una paura alla lista, la paura di diventare odioso, indesiderabile, con quella cataratta di nuvole negli occhi. Da qualche parte, nella piazza, attacca una musica mai sentita prima. Lucien mi circonda le spalle con un braccio, mette in un cerchio le mie angosce. Stasera balliamo fino a perdere i sensi, mi promette. Ballare è una di quelle cose che mi riescono. Mi sembra di calzare meglio il mio corpo. A te non piaceva, ricordi?